sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Qui finisce la nostra storia. Spero di averti dato un breve riassunto della mia vita e di quella della nonna. Se abbiamo sbagliato in qualcosa, ti prego di capirci. Abbiamo cercato di comportarci sempre con onestà. Io ho passato i miei guai. La fortuna in complesso mi ha assistito. E pur con qualche acciacco, tiriamo avanti. La storia di un nonno. Un nonno che al proprio nipote racconta i pezzi della sua vita man mano che passano gli anni, forse di centellina in base a quanto cresce il nipote, no? E quindi quando è piccolo gli racconta solo certe cose, poi cresce e magari aggiunge dei pezzi, pezzi riguardanti la guerra, pezzi della vita più difficili da raccontare a un bambino. E alla fine quel bambino, il nipote, dice: nonno, fai una cosa, un bambino magari già ragazzo direi, visto gli anni in cui è stato scritto questo diario, dice: nonno, fai una cosa, scrivi le storie che mi raccontate, scrivile su un diario, in modo che le persone che verranno dopo di te, dopo di me, dopo di noi, potranno sapere da dove arriva la nostra famiglia e da dove arrivi tu. Il diario di oggi è il diario di Aldo e Carlo, che era suo nipote, gli ha chiesto di scriverlo. Buongiorno a tutti, questo è I Diari di Voi Siete Qui. Io sono Matteo Caccia e oggi di sabato, anche 27 di dicembre, due giorni dopo Natale, in cui si ritorna a fare più o meno le cose normali dopo i giorni delle feste, noi torniamo a raccontare i diari delle persone che hanno voglia di condividere pagine della loro vita o, come in questo caso, pagine della vita dei propri familiari, del proprio nonno nella fattispecie. La storia di Aldo è una storia di vita semplice, nasce all'inizio del secolo, nel 21, l'anno di mia nonna, era coetaneo di mia nonna, nel 21, e vive fino alla scorsa estate, manca nel luglio del 2014 il nonno Aldo. E Carlo ha deciso di mandarci tutto il suo diario. Io ne ho scelto dei pezzi, in realtà, perché il diario ovviamente era molto lungo, ho scelto l'inizio e la fine del diario, ovviamente, che ci manda Aldo. Vi ricordo che però questo programma è fatto in collaborazione con l'Archivio di Diaristica Nazionale di Pieve Santo Stefano, e quindi nella seconda parte di questa puntata avremo una storia che arriva da loro e che arriva da un altro posto in Italia. Sempre di quel periodo parliamo, però nella seconda parte parleremo del Senese, della zona di Siena e di un nuovo illustre che arriva da là. In questa prima parte invece siamo in una delle povere zone che a quell'epoca era una delle zone più povere del paese, il Polesine. È l'inizio del secolo e Aldo è piccolo, piccolo, piccolo. Sono nato il 24 ottobre 1921 a Pincara, in provincia di Rovigo, frazione Bernarda, una località di circa 500 abitanti, vicino al Canal Bianco, un canale che attraversa il Medio Polesine dopo essere nato nelle valli veronesi e poi si getta nell'Adriatico. Ero il primo di sei fratelli, tre maschi e tre femmine. All'età di 9 anni, e precisamente nell'ottobre di quell'anno, mio padre decise di mettermi in collegio. Partii il 1 ottobre per Legnago, in provincia di Verona, ed entrai, per frequentare la quarta elementare, nel collegio dei Salesiani. Fui iscritto ad una scuola di avviamento professionale all'esterno del collegio. Tutte le mattine partivamo dal collegio che si trovava a Porto, sulla riva sinistra dell'Adige, e andavamo a Legnago accompagnati da un assistente in una scuola vicino alla stazione. Al termine delle lezioni, l'assistente ci riaccompagnava in collegio. Dopo il pranzo si faceva la ricreazione e poi lo studio in una sala comune. Alla sera si cenava e dopo un'altra breve ricreazione e la preghiera si andava a letto. Qualche volta, alla sera, assistevamo a qualche proiezione nella sala comune. Ecco, questa vita durò 5 anni e alla fine ritornai a casa con il diploma di avviamento professionale, ottenuto con ottimi voti, perché avevo sempre studiato con molta buona volontà. Allora avevo 13 anni. L'anno seguente mi mandarono a Badia Polesine a frequentare un corso integrativo di un anno per poter poi iscrivermi alla quarta classe magistrale inferiore a Rovigo. Ero a pensione presso una famiglia di parenti di mia zia Yolanda, moglie di Luigi, il mio zio più caro, colui che mi voleva tanto bene e con il quale ho trascorso il periodo più bello della mia fanciullezza e della mia gioventù e che ricordo sempre con nostalgia. Andavo a casa il sabato pomeriggio e ritornavo a Badia la domenica pomeriggio, sempre in bicicletta, circa 20 chilometri, sempre da solo, per poter essere pronto per andare a scuola il lunedì successivo. Alla sera, quando tornavo a casa, dopo aver mangiato, dovevo fare i compiti scritti e poi studiare. E siccome allora vivevamo, specialmente all'inverno, tutti in cucina, perché era l'unico locale riscaldato, per studiare andavo a letto e studiavo tenendo il libro con una mano, illuminato dalla candela, perché non c'era la luce elettrica, e dovevo stare sotto le coperte, perché nella mia stanza, la più fredda della casa, c'era tanto freddo. Al mattino, quando mi alzavo, per lavarmi la faccia dovevo spesso rompere il ghiaccio della brocca. Ora sembrano cose strane, ma allora era proprio così. Alla fine, dopo i 3 anni della scuola superiore, ottenni il diploma di insegnante. Era il 1940, avevo 19 anni, era finito il periodo della giovinezza, ero diventato un uomo. Da lì passano gli anni, Aldo viene arruolato, parte in guerra verso la Grecia, poi viene fatto prigioniero e spedito in un campo in Germania. Si salva, torna a casa e dopo la guerra inizia ad insegnare a scuola. Nel 1974 ci trasferimmo a Fiesso Umbertiano. Spesso mi chiedo se avevamo fatto bene a comportarci in quel modo. Ci eravamo allontanati da voi, anche se ci vedevamo spesso. Ricordo che tu e le tue sorelle venivate a passare lunghi periodi con noi durante le vacanze. In quel periodo fummo aiutati tanto dalla mamma e dal papà. E così, dall'inverno del 1974, cominciò un altro periodo della nostra vita. Nel 1986 la mamma espresse il desiderio che ci trasferissimo vicino a voi, dato che eravamo anziani e voi non potevate certamente venire spesso a trovarci. Era la soluzione migliore, perciò, come ben sai, nel 1986 venimmo a Cesano. Il resto è cronaca, che ben conosci. Siamo contenti di essere tornati vicino a voi. E qui finisce la nostra storia. Spero di averti dato un breve riassunto della mia vita e di quella della nonna. Se abbiamo sbagliato in qualcosa, ti prego di capirci. Abbiamo cercato di comportarci sempre con onestà. Io ho passato i miei guai, la fortuna in complesso però mi ha assistito. E pur con qualche acciacco, tiriamo avanti. Nota a margine. Scritto per Carlo tra il 1995 e il 2005. Data insicura. La nonna Daisy è morta nell'estate del 2013. Il nonno Aldo, autore della storia, Domenico Romanato, è morto il 4 luglio del 2014. I documenti aggiuntivi sono legati all'originale. Per chiarimenti su genealogia, chiedere a nonna Lalla. È una perfetta storia del Novecento, quella che ci ha raccontato Carlo, o che ci ha raccontato in realtà Aldo, attraverso il suo diario, che però ci ha inviato ovviamente suo nipote Carlo. Un secolo breve, mica tanto breve, visto dalla storia di una persona che l'ha vissuto dall'inizio alla fine. E visto che ce l'ha mandato, parliamo direttamente con lui, parliamo col nipote, con Carlo. Pronto Carlo, buongiorno. Buongiorno Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento, Carlo? Al lavoro, in ufficio. Tu che cosa fai nella vita? Io vendo ferramenta. Ah, ok, infatti è vero che il sito, l'indirizzo da cui me l'hai mandato è ferramenta. Ricordami il nome della ferramenta? Galimberti. Galimberti, ovviamente, ti chiami Carlo Galimberti. Va da sé. In quanti siete in ferramenta? Non siamo in pochi, perché siamo una decina. Grande ferramenta. Poi un po' di persone che lavorano fuori. E va sempre la ferramenta. Perdonami la domanda stupida. Va sempre Carlo la ferramenta? Cioè, lavoro c'è? È un mondo però, nel senso che ha mille sfaccettature, mille cose diverse. Ad esempio noi ci occupiamo di accessori per mobili in particolare. Ah ok, quindi avete un settore quasi specializzato. Abbiamo un settore specifico. Ok, guarda, starei ora a parlare della ferramenta, però mi interessa molto la storia di nonno Aldo. Non mi sembra a caso. Io ho preso un pezzo che è praticamente l'inizio e la fine del diario di tuo nonno, Carlo. In mezzo c'è una cosa che manca e che magari chiedo di raccontare velocemente a te, perché abbiamo poco tempo. Cioè, siamo arrivati fino al momento in cui lui prende il diploma, diventa insegnante, però manca il pezzo della guerra, in cui lui va in guerra in Grecia, giusto? E viene fatto prigioniero. Sì, quello è la parte più strana. strana, nel senso che erano quegli fatti che lui mi raccontava da bambino e sono quelle cose per cui a un certo punto qualche anno fa io gli chiesi di scriverle, perché erano cose che volevo che avessero modo di conoscere anche i miei figli. Sei stato tu espressamente a dirgli: nonno, buttale giù. Sì, adesso non mi ricordo il tempo in particolare, però allora glielo chiesi più o meno quando i bambini cominciavano a crescere, perché volevo che rimanesse qualcosa anche a loro. Del bisnonno? L'hanno conosciuto quindi il bisnonno, i tuoi figli? Sì, loro l'hanno conosciuto, l'hanno frequentato poco perché ormai lui era molto anziano, però l'hanno conosciuto. Che cosa ha insegnato? Che insegnante era tuo nonno? Lui era un maestro elementare. Che ha intercettato anche qualcuno della famiglia oppure no? No, ovviamente. Ci sono due generazioni quasi. Sì. Quando io andavo all'elementare lui aveva già smesso di insegnare. Che persona era tuo nonno Aldo? Era una persona tranquilla, una persona che ha passato tante cose nel corso della sua vita, ha avuto modo di vedere cose belle, molte cose brutte, e qualcuna l'ha sofferta più di altre, però ha sempre fatto quello che doveva con onestà. Carlo, e poi ti saluto e ti lascio andare al tuo lavoro, alla tua ferramenta. Che cosa ti è rimasto degli insegnamenti di tuo nonno? Ma sinceramente la cosa che mi è rimasta di più è proprio quella di fare cercare sempre di fare la cosa giusta nel momento in cui tu la stai facendo, senza poi dopo avere tanti rimpianti, perché dopo è sempre facile dire avrei potuto fare così, avrei potuto fare cos'ha. Però nel momento in cui tu la fai, se tu cerchi di fare la cosa che reputi giusta per te e per gli altri, di rimorsi poi dopo non ne hai. Carlo, grazie davvero, buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Grazie, buona giornata presto. Anche a te. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. I diari di Voi Siete Qui. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. E proprio come avete sentito dalla viva e stentorea voce del nostro speaker Diego, questo programma è fatto, stentorea in senso buono ovviamente, cioè nel senso che lo speaker, ho visto di là dal vetro preoccuparsi, Diego, la sua voce stentorea che ci raccontava che questo programma è fatto grazie all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, e sto per raccontarvi una storia che arriva proprio da là. È una storia molto particolare, perché riguarda una personalità molto particolare. Stiamo parlando di Guido Chigi Saracini. Chiunque abiti a Siena o da quelle parti lo conosce, o sicuramente conosce l'Accademia Musicale Chigiana, che è stata fondata da lui, che era un musicista e un cultore della musica. Era un personaggio molto particolare e molto interessante. È nato a Siena nel 1880 ed è morto nel 1965. Veniva da una famiglia nobile e si è fatto la guerra. Se l'è fatta a modo suo, perché di fatto si arruola come volontario automobilista per la Croce Rossa e mette a disposizione dell'esercito sia se stesso sia l'automobile che possiede e l'autista che la guida, ovviamente. Quindi di fatto lui si arruola e diventa nemmeno autista di per sé, ma una sorta di ausiliare dell'autista, e dà soprattutto la possibilità di usare la sua automobile, che trasforma in un'ambulanza speciale. Più volte nel diario, ve ne leggerò solo un piccolo pezzo, ma nel diario lui racconta di come tutti siano affascinati da questa automobile, che appunto è una sorta di ambulanza ante litteram. Non è a Siena in questa storia, ovviamente, è a Udine per l'esattezza, e si trova insieme a sua moglie Bianca, che fa l'infermiera, è di stanza in un ospedale militare, e lui fa la spola, fa avanti e indietro. E qui in questo diario lui racconta delle retrovie, racconta delle strade che percorre tutti i giorni, quelle che sono tra Belluno e Treviso, zone che lui non conosce e di cui si meraviglia per la prima volta. Dice: doveva esserci la guerra perché scoprissi questi luoghi meravigliosi. Siamo nel 1915 e siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Udine, 1915. Stamattina verso le 9, Faina, il buon Faina, è venuto a portarmi le notizie di Bianca e una sua lettera, più una commissione. Un orologio a braccialetto per un operaio, ragazzo cui una granata asportò al braccio sinistro mentre lavorava con una squadra di operai borghesi per uso militare. Ringrazio e lo avverto che stamani, appunto, dovrò essere in servizio a Manzano. Alle 11 sono alla direzione di sanità, infatti. Ma non partiamo prima delle 12. Vengono meco due capitani. Arriviamo verso la mezza E siccome mi secca domandare un posto alla mensa con Bianca, nonostante il cortese invito di quel colonnello, depositati i miei superiori alla direzione sanità di Manzano, mi fermo all'ombra, in piazza, e vado in cerca di una qualche osteria. Quello che posso trovare però non mi dà il coraggio di assidermi a quel desco e prendo la risoluzione eroica di acquistare un poco di mortadella, con la quale formiamo due panini gravidi. Il pane qui è buono dappertutto. E lo divido con lo chauffeur. Così rifocillato, vado all'ospedale 218 a salutare Bianca, che trovo a fare la siesta con i suoi superiori. Sotto una fresca abetina, nel giardino attiguo a quell'ospedale già villa privata. La solita amabile accoglienza, fin troppa accoglienza anzi, perché confonde. La mensa, dato il caldo in casa e data la bella stagione, era apparecchiata sotto la detta abetina, proprio deliziosa. Mi si fanno ancora i complimenti per l'infermiera Chigi, mia moglie, ed io, lieto, ringrazio i laudatori. Poi con Bianca e con la Ricco Manni scendiamo al reparto chirurgia, la palestra pietosa di mia moglie. Vedo il piccolo operaio mutilato del braccio sinistro, cui Bianca dona l'orologio che le ho portato. In altra stanza visitiamo un altro operaio. È un uomo cui una scheggia di granata ha gravemente offeso la spina dorsale. Soffre atrocemente il poverino, che Bianca e la sua compagna più tardi mi dicono essere ormai condannato. Dio mio, che pena. Tutto quel riparto, naturalmente adattato in locali privati di cui vatte la pesca qual era l'uso primo, è pulito e ordinato assai, e non manca di nulla di quanto vi occorra per il suo odierno uso pietoso. Ma è l'ora di ripartire. Alle 13:15 sono alla direzione sanità a riprendere i miei due capitani. Sono due meridionali che mi danno del principe a tutto andare. Il cognome Chigi, da Chiusi in giù, riporta sempre alla famiglia principesca romana di Piazza Colonna, ed è principe, per forza. Il colonnello schizzo della direzione sanitaria di Manzano, che trovo a far la siesta nel piazzale della villa che ospita detta direzione, mi accoglie con molta cortesia. Anche lui mi domanda se sono il marito dell'infermiera del 218 e, udita la mia affermazione, si rallegra meco per l'opera di mia moglie. Meno peggio. Poi, finalmente, ripartiamo. Dopo la immancabile ammirazione generale alla mia ambulanza. E l'abbiamo chiuso così questo 2014, l'abbiamo chiuso questo 2014 che riguarda i diari di Voi Siete Qui. L'abbiamo chiuso col diario di due persone che hanno raccontato il loro Novecento, il loro pezzo di Novecento, che riguardavano uno la vita di Aldo, che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, e l'altro invece la vita di Guido, per esattezza Guido Saracini, che è un personaggio, come vi raccontavo, illustre senese, che ha anche fondato l'Accademia Musicale di Siena e che ha vissuto la prima guerra mondiale. Quella è la sua guerra. Visto che quest'anno era l'anno dedicato al centenario della prima guerra mondiale, abbiamo deciso di chiudere con due storie che in qualche modo avevano a che fare con quel pezzo di storia del nostro paese. Io vi auguro un buon 27 di dicembre, una buona domenica. Noi ritorniamo ovviamente lunedì con Voi Siete Qui alle 16, puntuali su Radio 24. Ringrazio nel frattempo Pietro Lacorte, ringrazio Tiziano Bonini, ringrazio Miriam Lucchetti, ringrazio soprattutto Carlo e Guido, perché i diari di oggi erano i loro, e anche loro sono due punti rossi su una mappa.